Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono questa volta a Firenze per segnalarvi una mostra abbastanza particolare, particolarmente spettacolare e anche molto interessante come argomento. Il titolo è La fabbrica della bellezza e racconta la storia di statue molto particolari, di statue che sono fatte di porcellana. Firenze, al principio del Settecento, ha conosciuto una delle principali e prime grandi manifatture di porcellana in Europa, la fabbrica impiantata dal marchese Carlo Ginori a Doccia, la famosa porcellana di Doccia. Poi noi conosciamo questa azienda perché nell'Ottocento si unì a un'altra fabbrica milanese, Richard Ginori, e questa fabbrica ha continuato fino ad anni recenti. Recentemente questo museo, che era stato costituito in tanti anni di attività, è stato acquisito dallo Stato, ed ecco, da questo museo provengono gran parte di questo popolo di statue che aveva una caratteristica molto particolare. Si potevano lavorare naturalmente queste statue prendendo dei modelli dalle statue che erano nelle collezioni medicee ad uso dei turisti, naturalmente turisti abbienti, che potevano permettersi di comprare la Venere di Medici, il Mercurio che si trovava nelle collezioni medicee, però in formato porcellana. Quindi la mostra ci mostra tutti questi straordinari capolavori ridotti in questa materia meravigliosa che, come sapete, nel Settecento era preziosissima, era considerata un oro bianco, e quindi tutti gli stati più importanti si erano dotati di manifatture, e compreso lo stato granducale toscano. La mostra, tra l'altro, finisce con una cosa ancora più inattesa, cioè un camino, perché si poteva fare con questa porcellana non solo i piatti e le cose che noi ci immaginiamo, non solo le statue, ma addirittura interi componenti d'arredo, come questo colossale camino che, guarda caso, è decorato con citazioni di statue da Michelangelo, e quindi ancora una volta una grande composizione bianca, candida, meravigliosa, e in questo caso perfettamente restaurata, a ricordarci questa antica e gloriosa tradizione della manifattura porcellana fiorentina.